Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di una donna scomoda al punto da essere passata alla storia come la pazza. È una donna dei tempi lontani, si chiama infatti Giovanna la pazza e stiamo parlando di una figura storica che abbracciò un periodo fra il 400 e il 500. È al centro di un libro di Gaia Servadios che si intitola appunto Incoronata pazza, è pubblicato da Salani, 312 pagine, 18 euro. Giovanna la pazza era la mamma di Carlo V e fu la moglie di Filippo il Bello. Lei stessa era regina di Castiglia in quanto figlia dei sovrani che avevano unificato la Spagna. Visse tra il 1479 e il 1555 e fu certamente una delle figure più note e importanti del suo tempo, non solo per la parentela, ma anche per esempio per il fatto che tutti i suoi figli diventarono o re o imperatori, due imperatori, e poi gli altri re o regine di Francia, di Danimarca, di Boemia e Ungheria e del Portogallo. Fu una figura, come dicevamo, molto discussa e l'appellativo pazza, secondo Gaia Servadio, esprime appunto la somma dei pregiudizi che la perseguitarono in vita e che coprivano spesso precisi interessi volti soprattutto a esautorarla dal potere e dai regni che le sarebbero spettati, soprattutto dopo la morte del marito. Avrebbe finito la sua esistenza a Tordesillas, dove Giovanna condusse i suoi ultimi anni, scrive Gaia Servadio, come una larva incoronata senza potere, e forse lì al centro di segreti che aggiungono un tocco di suspense e di particolare interesse a questo libro. Ma sentiamo l'autrice. Buongiorno a Gaia Servadio. Buongiorno. Allora, Giovanna la pazza, come mai tanto interesse verso una regina della fine del 400, vissuta poi fino al 500, un periodo lontano, che certo ha dato i natali a tanti re, ma insomma una figura molto di nicchia, per così dire. Sì, intanto un momento che è affascinante perché è il grande cambiamento, lo spostamento del potere dal Mediterraneo, che diventa, che è in mano poi ormai alla pirateria, al mondo islamico, e il mondo invece del nord, passa tutto al nord e passa tutta la ricchezza e la forza, anche molte delle arti, e poi c'è l'entrata in questo nuovo mondo, non solo del nuovo mondo delle Americhe, ma anche dello scoppio della protesta religiosa. Cambia veramente il mondo. La madre di questa mia protagonista, tra l'altro, era Isabella la Cattolica, con la quale Colombo sviluppa una specie di amore mistico. Ci sono proprio tanti spunti. E poi c'è tutto il grande ponte di grandi culture, Mudahar, quindi il mondo islamico che viaggia verso le Fiandre, quindi la musica, la poesia e il mondo delle Fiandre, Van Eyck, che viaggia dall'altra parte, quindi si mescolano in questa Europa che fino allora era stata da una parte, diciamo la Spagna, e si mescola una grande cultura e poi diventa il centro del mondo. E in più, secondo me, la storia è tanto interessante perché la storia si ripete e la storia è una cosa così basilare. C'è tanta modernità nella storia di Giovanna la pazza. Prima di tutto il fatto che, essendo una donna, venne veramente sacrificata. Poi due, come è stata diciamo sporcata, la sua memoria è stata sporcata con le solite cose che si dicono delle donne che si vogliono proprio sporcare, puttana, infomane, pazza, stupida, eccetera. Per tante ragioni invece questa era una donna così importante nella storia, ma anche per la ragione che è la madre di Carlo V, l'imperatore del mondo, e tutti gli altri figli sono tutti re. E per molte ragioni a questa donna non viene concesso di diventare la regina, perché sarebbe diventata la regina della Spagna, dell'unità d'Italia, del nuovo mondo, cioè delle Americhe, delle Canarie, insomma chi più ne ha più ne metta. Ecco, fermiamoci un attimo su questo giudizio che i contemporanei diedero di lei e che appunto le valsero poi l'appellativo della pazza. Ma fu più pazza o più irregolare, diremmo noi col linguaggio moderno? Certamente certo punto lei diventa molto irregolare, diventa probabilmente, certamente era epilettica, come tutti loro, sono tutti epilettici. Addirittura Giuseppe Verdi ci fa vedere in una bellissima scena del Don Carlos, con tutta anche per il fatto che si sposavano tra cugini da generazioni e generazioni, ma poi essere epilettici allora con quella, con quel tipo di dieta, quel tipo di vita che facevano, non era così difficile. Ma certamente lei lo diventò pazza, perché gli ultimi 40 anni della sua vita fu prigioniera, quindi anch'io diventerei pazza con 40 anni chiusa dentro. E così era stato della sua nonna, tra l'altro, perché la madre di Isabella era cattolica per le stesse ragioni, cioè che era politicamente importante ma scomoda, quindi era stata chiusa anche lei in uno di questi castelli, diciamo della verità, meravigliosi della vecchia Castiglia, che mi sono andata a vedere con grande curiosità e fascino. Era un personaggio moderno anche nel fatto che viene molto attratta da Erasmo, che era alla sua corte, alla corte del marito, che era Filippo il Bello di Asburgo. Erasmo è una grande figura della nostra era, e viene anche attratta dall'erasmismo e quindi dagli inizi della protesta, diciamo, non possiamo ancora parlare del protestantesimo, ma o del calvinismo, ovviamente tutto ante litteram, però anche per quello lei è invisa, e forse anche c'è una punta di quello che si potrebbe dire oggi è di sinistra. Lei aveva delle... era molto vicina alle sue schiave islamiche, alle sue schiave arabe, che erano delle vere amiche. Questa è una cosa che non piaceva niente né alla corte borbonica né alla corte spagnola. Quindi c'ha tante cose interessanti, purtroppo hanno distrutto tantissimo di lei, tutta la sua corrispondenza è andata persa, e ovviamente ad hoc, perché c'è quella che concerne lei di Carlo V esiste, ma in codice, perché appunto si voleva nascondere con quale crudeltà questa poveretta veniva tenuta prigioniera. Ma è una donna vittima del suo mondo, del sistema, come diciamo la verità, ce ne sono tante anche oggi, guardiamola anche proprio in Birmania, direi che sia più o meno la stessa cosa. Lei, accennando proprio a Erasmo, scrive che in fondo la follia è la capacità di essere spesso più lucido di chi è normale. Questo è verissimo, e anche dico che Dostoevsky, anche lui ce lo fa vedere bene, anche ce lo fanno vedere in tanti autori, e ce lo fa vedere la vita, perché è molto spesso è quello che ti fa vedere quello che noi chiamiamo pazzo, vuol dire che non è normale. E cos'è la normalità? Non lo sappiamo neanche noi, ma chi non è normale forse c'ha una punta di intelligenza maggiore, c'ha una genialità, c'ha qualche cosa che non è convenzionale. Certamente questa non era una donna convenzionale, e anche una donna che deve affrontare la vita, si sposa a 16 anni, vabbè che a quell'epoca tutti si sposavano prestissimo, ma questa comincia con dei viaggi spaventosi in mare, dove tutti stanno male, vuotano l'anima a Dio, cioè lei invece dimostra una sua fermezza, un senso di grande dignità regale. E poi ho trovato delle cose molto interessanti in Inghilterra, che erano state perse. Quando lei, già sposata con Filippo il Bello, va alla testa di questa enorme armata spagnola, che sono queste enormi flotte che sono tra l'altro pochissimo adatte a quei mari, infatti lo vediamo un secolo più tardi con la magnifica armata di Filippo II che perde contro Elisabetta, ma questa flotta si perde dei flutti, si rovina, si scontra con vengono perse vite, persi vascelli, e quindi loro si devono fermare a lungo alla corte di Enrico VII, il primo Tudor, re furbissimo. E lì ci sono molte cose interessanti, anche perché ci sono tutti i commenti di Enrico VII su di lei, che la trovava bella e tutt'altro che stupida. Bene. Infatti più avanti lui sperava di sposarsela. Bene, allora grazie a Gaia Servadio, autrice di Incoronata pazza. Grazie a voi. Un'altra scrittrice appassionata di storia, lei fa anche l'imprenditrice agricola, è Alessandra Di Baglioni, che ha scritto A Storre secondo Baglioni, guerriero e letterato, pubblicato da Volumni a 288 pagine, 18 euro. L'autrice qui romanza la vita di un suo antenato che è esponente di una nobile famiglia perugina che avrebbe concluso la sua vita avventurosa nel 1571 a Famagosta, dopo aver resistito per un anno e mezzo all'assedio dei turchi che, tradendo gli impegni, uccideranno lui assieme a Marcantonio Bragadin. Siamo insomma nel pieno dello scontro tra europei e musulmani, quello che già fa capolino nel libro su Giovanna la Pazza, uno scontro che culminerà poche settimane dopo il sacrificio di Baglioni nella vittoria di Lepanto. Romanzo, questo dicevo, basato su una scrupolosa ricerca d'archivio che lascia peraltro spazio una grande capacità di restituire la forza di un personaggio certamente insolito e poco noto. Ultimi arrivi. Un'altra autrice di grande successo, questa irlandese, è Catherine Dunn, di cui Guanda pubblica Donna alla finestra, 302 pagine, 16,50 euro, tradotto da Ada Arduini. E qua abbiamo di fronte un menage quasi perfetto che viene turbato dall'arrivo in una famiglia apparentemente modello da un ragazzo, amico del figlio, che provocherà degli eventi inspiegabili. E invece nel campo della storia vi segnalo il libro di Arrigo Petacco e Giancarlo Mazzucca, La resistenza tricolore, la storia ignota dei partigiani con le stellette, Mondadori, 170 pagine, 19 euro, dove si parla delle vicende spesso tragiche di tanti militari italiani che dopo l'8 settembre del 1943 non smobilitarono, non fuggirono, non si rassegnarono a quella che poi avremmo chiamato la morte della patria e si schierarono contro i tedeschi. La loro resistenza diede vita a episodi drammatici ed eroici, il primo dei quali fu l'attacco tedesco alla corazzata a Roma, che fece perdere la vita a 1352 marinai, seguito dall'episodio forse più celebre, cioè l'eccidio di Cefalonia, dove persero la vita 946 soldati italiani. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, restiamo nel campo della storia, ma questa volta con un'opera narrativa che ci porta al tempo di Rousseau, al tempo della Rivoluzione Francese, un libro che ha avuto un grande successo in Francia e si intitola Mio fratello Rousseau, autore Stéphane Audigui. È pubblicato da Fazzi, tradotto da Maurizio Ferrara, 284 pagine, 18,50 euro. Parla appunto qui il fratello maggiore del grande Ginevrino, il filosofo, il gigante del pensiero occidentale, che effettivamente ebbe un fratello maggiore che all'improvviso però scompare e lascia il filosofo figlio unico, come lui stesso il filosofo scrisse nei suoi libri. Il fratello maggiore di Rousseau, il protagonista di questo libro, è tutt'altro che un filosofo, si tratta piuttosto di un avventuriero, sempre attento alle dolcezze dell'amore e del sesso, che a un certo punto diventano una sorta di vocazione professionale, lo trasformano in una specie di titolare di porno shop ante litteram. Emerge dal libro un quadro del XVIII secolo, quindi gaudente e leggero, ben diverso dal clima intellettuale di cui Rousseau, il filosofo, è espressione. E del resto lo stesso autore fa dire al suo protagonista: l'ironia è morta con l'antico mondo. E nella vita del Rousseau c'è anche la Bastiglia, dove il protagonista trascorrerà diversi anni, ma sempre senza particolare sofferenza, in compagnia di un condannato illustre, il Marchese de Sade, di cui lo stesso Rousseau contribuirà a salvare le 120 giornate di Sodoma. Poi interviene il 14 luglio, i prigionieri sono liberati, la fortezza viene abbattuta e tutte quelle pietre diventano una fonte di grande speculazione, perché esplode il commercio dei souvenir, pare di capire molto dei quali falsi, e quindi Rousseau imbocca la nuova strada di testimone della rivoluzione. Devo dire che il fratello filosofo rimane un po' nell'ombra in questo libro, c'è più Sade che Rousseau in questo romanzo, e anzi il protagonista assiste novantenne alla solennissima traslazione delle spoglie del fratello al Pantheon e in effetti non si rende neanche conto perché questo fanatismo così cupo della rivoluzione si rifaccia proprio al pensiero del fratello. Un esempio di questo fanatismo che Rousseau vecchio descrive nel suo libro è l'intolleranza nei confronti dell'impegno politico delle donne, che ebbe in quegli anni della rivoluzione ben scarsa fortuna, come ricordano queste righe. Agli esordi della rivoluzione, immense speranze germogliarono tra le rappresentanti del gentil sesso. Le più illuminate compresero che c'era un'occasione unica di prendere in esame i temi del matrimonio e del divorzio, dei salari, dell'educazione femminile. Dopo la caduta della Bastiglia, furono fondati ovunque club di cittadini. Vi si leggevano le notizie, si redigevano mozioni da portare all'assemblea, si discutevano idee di ogni tipo, si parlava della vita di quartiere. Vi si presentarono alcune donne che volevano portare nei club le loro speranze, quelle delle madri, delle figlie, delle sorelle. Risultò allora che la parola cittadino, che ognuno avrebbe potuto credere neutra, in realtà era di genere maschile. I club ammettevano che le donne assistessero alle riunioni, ma con la più commovente unanimità repubblicana, le sezioni di Parigi, delle grandi città del regno, dei piccoli villaggi, furono d'accordo su un punto. Non se ne parlava nemmeno di associare il gentil sesso alla benché minima decisione. Dello stesso autore, Stefano De Ghi, è uscito da Archinto Piccolo elogio della dolcezza, 136 pagine, 12 euro, tradotto da Daniela Marin, che rappresenta forse una proiezione del russo gaudente che abbiamo conosciuto nel libro precedente. La dolcezza, infatti, scrive De Ghi qui, non si traduce in un potere, è difficile che porti all'elaborazione di concetti o di slogan. La dolcezza non può essere che inevitabilmente minoritaria, questo è il suo fascino segreto. Io propongo, conclude, di chiamare dolcezza insieme delle capacità di un'esistenza libera. E qui ci sono tante voci che esprimono appunto questa capacità o questa tendenza all'essere dolce o a impossessarsi della dolcezza, da addormentarsi, il piacere di sprofondare nelle nere acque del sogno pensando che ne ritorneremo sempre, a Bologna, al riparo sotto i portici, un lusso raffinato, essere contemporaneamente fuori e dentro, a Rousseau per l'appunto, o all'SMS. Gli SMS, scrive l'autore, non esigono imperiosamente una risposta, però la chiedono, implicano un'arte della leggerezza. Cosa vogliamo di più? Jean-Jacques Rousseau, il filosofo, non il gaudente, è una delle figure certamente più discusse della filosofia moderna per il ruolo che ha avuto nella formazione del pensiero contemporaneo. Molti gli rinfacciano di aver offerto le basi addirittura per la nascita del totalitarismo. Sentite per esempio questo passo. Nel contratto sociale vi è il meglio dell'impostazione teorica di Rousseau. Trasferendo i propri diritti alla comunità nel suo complesso, gli individui rinunciano a tutte le libertà. È vero che Rousseau ammette l'esistenza di qualche garanzia, nel senso che ciascuno dovrebbe conservare determinati diritti naturali, ma ciò nel dubbio presupposto che il sovrano rispetterà sempre, in pratica, tali diritti. Il sovrano non è soggetto ad alcuna autorità superiore e la sua volontà è la volontà generale, una sorta di giudizio composito, affermabile con la forza anche sugli individui che potrebbero non essere d'accordo. Gran parte della teoria si impernia sulla concezione della volontà generale, ma purtroppo questa non viene sufficientemente chiarita. Sembra che si tratti di questo. Eliminando gli interessi individuali in conflitto tra loro, resta qualche interesse che è condiviso da tutti. Rousseau non porta mai questo ragionamento alle estreme conseguenze. Uno Stato gestito secondo tali orientamenti dovrebbe proibire tutte le organizzazioni private di qualsiasi genere, e in particolare quelle con obiettivi politici ed economici. Abbiamo dunque tutti i tratti di un sistema totalitario. E pur rendendosene conto, Rousseau non spiega come si possa evitare questa conseguenza. Quanto ai suoi riferimenti alla democrazia, bisogna comprendere che egli pensa alle antiche città-stato e non a un governo rappresentativo. Queste righe sono tratte da uno dei libri più famosi di uno dei maggiori filosofi divulgatori del Novecento, Bertrand Russell, vissuto quasi 100 anni fino al 1970, di cui i Longanesi ripubblica uno dei titoli più famosi, e cioè La saggezza dell'Occidente, panorama storico della filosofia occidentale nei suoi sviluppi sociali e politici. È tradotto da Luca Pavolini, 422 pagine, 26 euro. Il libro è datato perché risale agli anni 60 e qui Rousseau utilizza gli studi per la precedente monumentale storia della filosofia occidentale, ma è un libro sempre utile e gradevole per il tono leggero, per nulla pedante e supponente, della sua ricostruzione del pensiero filosofico da Talete fino a Wittgenstein. Restiamo nel clima della Rivoluzione francese, o meglio, torniamo in quel clima con un altro classico, 1789, I sogni e gli incubi della ragione, di Jean Starobinsky, un altro grande pensatore del Novecento. Il libro è pubblicato da Abscondita, 190 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Silvia Giacomoni. qua Starobinsky si misura con un anno che a suo parere segna la storia politica dell'Europa. Ma rappresenta anche un confine artistico. Quell'anno, infatti, aggiunge Starobinsky, rappresenta la sanzione veemente di una trasformazione sociale preparata e già parzialmente compiuta da lunga data. Sviluppa una serie di eventi spettacolari concatenati come le scene di una tragedia, illuminati da un raggio di rara intensità. E qui troviamo un'analisi degli eventi e del parallelo riflesso nelle arti, a partire da un accadimento eccezionale che salutò l'arrivo del 1789, cioè un inverno gelido come pochi altri, che fece gelare la Senna, la laguna di Venezia, e provocò i primi moti per la mancanza naturalmente di pane, ispirando anche delle opere d'arte molto importanti. Poi nel libro di Starobinsky troveremo Mozart, Füssli, David, lo stile neoclassico, Goya, Canova, a scandire l'evoluzione del gusto che accompagnò e in certi casi favorì la rivoluzione francese. E a questo punto il confettino. Restiamo nell'ambito dei romanzi storici con un libro per i ragazzi di Anna Lavatelli e Anna Vivarelli. Si intitola Senza nulla in cambio, pubblicato da San Paolo, 398 pagine, 18 euro. Le due autrici ci portano qui nell'Italia divisa del 1820, dove cominciano a manifestarsi i primi palpiti risorgimentali che vengono qui vissuti da Francesco ed Eugenia. Prima di salutarci vi ricordo che giovedì 13 inizia a Torino il Salone del Libro. Radio 24 seguirà con attenzione questa manifestazione, anzi avremo una nostra postazione e la trasmissione di domenica prossima andrà in onda in diretta da quella postazione, che si trova al padiglione 2, stand H170 e J169 a fianco della sala blu. Lo troverete indicato come spazio Radio 24. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dal quale potrete seguire sempre le nostre trasmissioni. Vi do appuntamento appunto a domenica prossima a Torino e vi auguro buona settimana.